Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari amici, buonasera e benvenuti in questa trasmissione. Allora, salutiamo il nostro partner che è Antonio Ceccato. Ciao Gesi, buonasera. Caro Antonio. Ciao, un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88.70 e 94.60 in FM. Ricordiamo, per chi lo desidera, la possibilità di seguire il programma in streaming o di scaricare il podcast dal sito bluradioveneto.it. Bene, stasera avremo il signor Marinello, è un maestro elementare che ci parlerà, leggeremo dei racconti della sua Ferrara, del Polesine in sostanza. Comunque, intanto andiamo con la prima canzone, Antonio. Benissimo, è sempre tematico, naturalmente monotematico, e quindi si parlerà di Mino Reitano, L'amore è un aquilone. Il fienile sospira con noi, cieli azzurri negli occhi tuoi. Batte forte il mio cuore per te, ho capito l'amore cos'è. Più sorridi e più bella tu sei, son riflessi i tuoi occhi nei miei. Come un fiore germogli perché hai capito l'amore cos'è. L'amore è sentimento, l'amore è un aquilone, vola seguendo te, in fondo al tuo sorriso, io trovo il paradiso. Il mio mondo si perde qua giù, dove i prati diventano blu, fili d'erba sui campi e più in là, oltre il fiume un mulino che va. Più sorridi e più bella tu sei, son riflessi i tuoi occhi nei miei, come un fiore germogli perché hai capito l'amore cos'è. Di nuovo in studio e adesso abbiamo il signor Donato Marinello. Signor Marinello, buonasera. Eccomi Donato qua. Buonasera Salve, signor Marinello, come buonasera. Sta? Bene, voi? Si tira a campare. Adesso io mi sto facendo, mentre voi mi intervistate, mi sto facendo una passeggiata nel parco di Trenno a Milano. Ah, no? Ecco, quindi sto camminando, così vi rispondo camminando, no? Prima leggiamo i due racconti che mi ha mandato e dopo lei ci parlerà di qualcosa oggi. Oggi, niente, continuiamo un po' con il discorso dell'alluvione. Va bene. Ecco, sì. Va bene, d'accordo. Allora, noi adesso, lei ci ascolterà e noi leggeremo i racconti. D'accordo, sì. Allora, comincio io. Va bene. Ladro di buoi. Sì. Due colpi secchi alla porta. Mio padre si svegliò, ansimando e farfugliando. Gli sembrava di vivere un brutto sogno. Solo al terzo violento colpo realizzò. Tirandosi su a fatica, diede una sbirciata alla sveglia sul comodino. Erano le 4:30. Ma chi sei a quest'ora? Chi è? Sono il padrone. Cosa che sei? Osò controbattere mio padre con voce rauca e strozzata dal sonno. Si alzi immediatamente, fu la risposta. Oh, un attimo. Qualche istante dopo, i capelli arruffati ed i mutandini, mio padre aprì la porta. Davanti un uomo sulla cinquantina, la faccia incolta e cupa, indossava un feltro grigio e mantello. Era Rodolfo, il proprietario della stalla. «Mi segua», disse costui. «Ma perché?» rispose balbettando mio padre. «Questa notte mi sono spariti due buoi». «Se è per questo, non so sta certo mi». «E chi altri allora?» «Lei dorme qui, attaccato alla stalla». «Aghe, ripeto, mi non c'entro proprio niente. Dormo qui, ma non sono un ladro, poiché poche storie, si rivesta immediatamente e mi segua». Mio padre rimase lì per qualche istante sulla soglia della porta. «Se ne avessi avuto l'intenzione, dove avrei potuto nasconderli questi buoi?» «E non rimanga lì sulla porta», tagliò corto Rodolfo. «Si sbrighi!» Se ne andò. «Proprio stamattina a me doveva succedere il sacramento. Io, padre, mentre rientrava, è in camera. Di lì a qualche ora sarebbe dovuto partire con la moglie e figli per Mirandola. Partenza che ora, per colpa di quell'imbecille, doveva ritardare se non annullare». Rimase per qualche istante seduto sulla sponda del letto, incerto se denunciarlo per violazione di domicilio. Alla fine, per non destare ulteriori sospetti, decise di assecondarlo, ben sapendo che tutto si sarebbe risolto in una bolla di sapone. L'animo sottosopra per la rabbia si vestì. Infilò in una borsa i pochi indumenti rimastigli ed altre cose utili in caso di necessità, oltre alla pipa e alla sua cara ed inseparabile sveglia con ricarica meccanica, il cappello in testa, ed uscì. Fuori nella nebbia c'era una balilla con il motore acceso. Mio padre si accomodò sul sedile posteriore, dopodiché Rodolfo, già al posto di guida, mise in moto e partì. «Se posso avere dove che me sta portando?» chiese mio padre. «In questura». «Ah, questa sì che è bella», esclamò ironico. «Per un furto che non ho fatto». «Questo lo chiariremo dalla polizia». «Ah, vuoi un testimone?» precisò mio padre. «Altrimenti sarà a me parole contro le sue». Rodolfo non rispose. La macchina proseguì la sua corsa a velocità sostenuta nel silenzio irreale e deserto della campagna padovana, ancora immersa nel buio. L'unico segno di vita era il debole chiarore proveniente dalla stalla in lontananza, dove solerti bovari erano già al lavoro. Nell'auto calò il silenzio che durò fino a Padova. All'unico agente presente in questura, a quell'ora Rodolfo espose le ragioni della loro insolita intrusione. Il funzionario ne prese atto, aggiungendo che l'unica persona in grado di dare una risposta al riguardo era il vicequestore. Dovevano però attendere fino all'apertura degli uffici. I due rimasero così, a rispettosa distanza, in sala d'attesa, ognuno chiuso nei propri pensieri. Mio padre tirava di tanto in tanto dei profondi sospiri, cuocendosi dentro dalla rabbia. Con le prime luci dell'alba divenne sempre più irrequieto e nervoso. Calcolò che di lì a poco la mamma, me e i miei due fratelli Bertilla e Luigino ci saremmo ritrovati nella piazza del paese, ma senza di lui, l'organizzatore del nostro viaggio. Era proprio il caso di dirlo, quando il destino ti mette di colpo il bastone fra le ruote. Mio padre sentiva la collera montargli dentro, tanto che niente ormai avrebbe potuto fermarlo. A soccorrerlo ci pensò il sindaco di Gazzo, entrato proprio in quegli istanti nella sala d'attesa. Com'è? Chiese chi? Chiese gradevolmente sorpreso mio padre. Sono stato svegliato dai suoi familiari. Ho preso subito la macchina ed eccomi qui. Lei qui, aggiunse il sindaco, non doveva neppure esserci. E lei, rivolgendosi poi a Rodolfo, come si è permesso di accusare il signor Marinello di un furto di cui non è assolutamente responsabile? C'è qualcuno che lo può testimoniare? Occorrono delle prove concrete. Queste non ci sono. Pertanto, proseguì il sindaco nella sua arringa, stia attento a quello che dirà al questore, perché le sue affermazioni potrebbero ritorcersi contro di lei. Il questore, anche se non è un giudice, potrebbe, anzi, glielo dico io, di che cosa la imputerà. Di diffamazione, di violazione di domicilio, di sequestro di persona e di scompiglio della quiete pubblica. Lei con la sua arroganza ha impedito al signor Marinello, che già vive in una situazione di grande sofferenza, di unirsi ai suoi questa mattina. Lo ha costretto a seguirlo fin qui per una causa semplicemente ridicola, facendogli solo perdere tempo. Lei, Rodolfo, farebbe meglio a sparire di qui. Il sindaco era uno a cui piaceva parlare dritto, dotato di grande intelligenza e sensibilità. Virgilio era il suo nome. Aveva fatto al momento della nomina a sindaco una scelta ben precisa: amministrare la cosa pubblica con grande spirito di abnegazione, rinunciando perfino all'indennità per non gravare sui bilanci del comune. Rodolfo rimase ancora lì per qualche istante, come folgorato dalla filippica del sindaco, oltre che imbarazzato e schernito dalle risatine sia di mio padre sia dell'agente di polizia. Rodolfo pensò bene a questo punto di togliere il disturbo ed, indossati mantello e cappello, si tolse subito di mezzo. Mio padre fu immediatamente riaccompagnato al centro di Gazzo dal sindaco stesso. È facile immaginare la gioia che provammo nel riabbracciarlo. Naturalmente fummo costretti a prendere un'altra corriera per Padova, da cui un treno per Mirandola, non senza aver gioito per un'altra notizia. Mentre Rodolfo era via, qualcuno gli aveva portato via altri due buoi. Si saprà in seguito che il ladro, Rodolfo, che l'aveva in famiglia, era suo figlio. Uno scansa fatiche che però aveva un hobby piuttosto oneroso per le finanze della famiglia stessa. Il gioco d'azzardo ormai ne era divenuto talmente dipendente da giocarsi anche all'insaputa del padre i beni di famiglia. Eccoci qua, abbiamo completato questa prima tornata e naturalmente prima di lasciare la parola al nostro ospite andiamo con il secondo brano musicale, che è Il tempo delle more. Era il tempo delle more e al fiume ti portai una luna quasi nuova, come era nuova la voglia di te. Le tue braccia come l'acqua e i grilli intorno. Parigi e papaveri stesi con gli occhi in su, che guardavano il cielo coperto di nubi blu. Quella notte quanti baci, quella notte quante stelle, ma poche verità. Era il tempo dell'amore, il mese che ti amai, le campane senza papaveri stesi con gli occhi in su, che guardavano il cielo coperto di nubi blu. Quella notte quanti baci, quella notte quante stelle, ma poche verità. Era il tempo. Ed eccoci in studio con il nostro ospite, al quale chiediamo appunto di illustrarci quello che è evidentemente con più dovizia di particolari quello che abbiamo già letto in questo momento. Noi ci siamo ritrovati inseriti in questa famiglia, mio padre da solo, mentre un altro fratello con cui era partito dal paese, allagato dall'acqua del Po. E invece l'altro invece in un'altra famiglia. Ma tornando alla situazione che visse mio padre, certamente non fu per nulla allegra, perché si sa che dopo alcuni giorni, metti una settimana, il massimo 10 giorni, l'ospite non è più visto con quei riguardi, con quelle premure che si ha all'inizio, no? Chiaramente. Quindi comincia a pesare, e per di più poi si è ritrovato poi con questa calunnia, no, di avere appunto di aver rubato i buoi, perché l'alloggio l'avevo ricevuto in una, chiamiamola, un dépendance, no? Attaccata alla stalla, e chiaramente la prima accusa che questo ha rivolto a mio padre, diciamo, scusi, è lei qui, però mio padre poi ironicamente gli ha anche risposto, ha ammesso anche che io avessi rubato questi buoi, ma mi dica, entri dentro, dov'è che li ho nascosti questi buoi? È vero. Il ragionamento è logico. Quindi a questo punto, ecco, e poi la questione è che questo qua lo prende, lo porta in piena notte quasi a Padova, perché lo vuole, oltretutto ha scelto la sede meno, tu vai, lo porti in tribunale, lo citi, non lo porti in struttura, poi non ci sono testimoni, c'era la parola di mio padre contro quella di Rodolfo, no? Quindi non c'era nessuno che poteva dire in quel momento che cosa era successo, no? Chi era l'indiziato di questo questo testimoni furto, oculari, quindi, oculare, sì. Certo, ecco, no? Poi il sindaco, volevo precisare che il sindaco perché aveva preso ben volere la mia famiglia, anche per il fatto che lui aveva un bambino, mi ricordo, che aveva la mia stessa età, io allora avevo sugli 8 anni quando arrivò l'alluvione. E poi fui iscritto ovviamente in quel lasso di tempo in cui rimanemmo lì a Galzo Padovano, fui iscritto lì alla, non so se prima o seconda, seconda elementare, credo. E niente, allora sono diventato poi amico di suo figlio, no? Tant'è vero che a volte lui veniva a trovarci, no? Dalla nostra famiglia. Noi siamo stati ospitati poi invece in una famiglia di nome Sperotto, no? Io e mia madre, chiaramente non potevo... È un cognome che è da mia nuovo, eh? Sperotto, ecco, non so, magari voi conoscete, vengo a scoprire, magari che voi conoscete i discendenti di questa famiglia, che poi non li ho più, ovviamente, sono passati già 50, 60 anni da allora, quindi non ho più rivisto nessuno di loro, no? Sì, sì. Ecco, e niente, veniva io e noi contraccambiavamo, cioè andando, mia madre mi accompagnava da sindaco, no? Un po' per fare i compiti insieme, un po' per giocare così, i soliti giochi con le palline di terracotta, no? Così. E quindi si era creato questo bellissimo rapporto, quindi il sindaco conosceva tutti i miei familiari, no? Avevo anche una sorella che invece era stata alloggiata da Glycerin, mi ricordo, un cognome così, Glycerin, no? E così c'era, per cui il rapporto che si era creato così di benevolenza da parte del sindaco nei nostri confronti era stato un, come dire, lo aveva spinto poi anche a sollecitare la risoluzione positiva di questa causa, chiamiamola giudiziaria, in cui era incappato mio padre. Impropria, giustamente. Impropria, mm-hmm. Così del tutto fuori luogo. Sì, sì, sì, sì. Quindi lei, i racconti che scrive sono cose avvenute? Sono cose avvenute, però io ho chiesto più volte ai miei fratelli, me ne è rimasto solo uno adesso, che loro aveva 14 anni quando arrivò l'alluvione, quindi ha dei ricordi molto più vividi dei miei, no? Di parlarmi, eccetera, ma loro, non avendo studiato, che ne so, erano di poche parole, mi dicevano due parole in croce, no? Allora io, in qualche modo, questa ricostruzione che ho fatto dell'alluvione, di vari episodi che l'hanno caratterizzata, l'ho fatta un po' tenendo conto dei miei pallidi ricordi, no? L'infanzia, e poi ovviamente coprendo un po' i buchi con delle ricostruzioni un po' fantasiose, ecco, immaginato. Verosimili, insomma. Ecco, giusto, ha detto bene. Verosimili, ecco, in questo senso. Certo, quindi. Certo. Comunque sono simpatici perché ti portano in un mondo... io siccome sono della bassa mantovana, quindi per me è come fossi a casa mia. quando gli ho detto, poi dopo ci sarà anche, magari se l'anno prossimo, se quando volete, ma siamo portati avanti anche il discorso. Adesso io sto scrivendo un libro, finalmente sulla citato da uno scrittore, di quelli che pubblicano veramente i libri, con la Longanesi, eccetera, di cui ho seguito un corso, no? Che mi ha dato anche ulteriori istruzioni su come impostare un libro, eccetera, eccetera. Sto scrivendo appunto un libro, non so se voi, se io l'ho già detto nella volta precedente, dal titolo Storie sottratte al fango, no? Ecco, sto scrivendo questo libro, L'alluvione, no? Sottotitolo Storie sottratte al fango. E sono arrivato già a pagina 120, sto portando avanti tutto quello che è successo, fra cui anche, si chiama il matrimonio, l'unico matrimonio, il primo avvenuto di alluvionati, no? A Biella, no? Che ha visto protagonista mio fratello, che si sposò a Biella, proprio da alluvionato. Ecco, e sto appunto illustrando tutto quello che è successo legato appunto all'alluvione. Ah, bene, bene. Resta veramente una pagina storica, perché è una ricostruzione. Sì. Un appunto, lei ha parlato prima della questione degli ospiti che dopo qualche giorno, diciamo, o qualche periodo di tempo, eccetera, non sono più così graditi. Mi viene in mente... C'è un detto che dice puzzano. Esatto. Mi viene in mente un po' la situazione attuale con ospiti di altre calamità naturali, con sfollati, eccetera, eccetera. Certo, quanto queste situazioni ripropongono e quanto sono, come dire, da sradicamento, cioè uno viene a perdere praticamente tutto, anche la memoria, eccetera, tranne qualche brandello così alla quale si aggrappa, evidentemente. Cioè, credo che sia una esperienza che dire traumatica. Di grande attualità, insomma. Cambia la vita, presumibilmente, proprio in modo definitivo, o sbaglio? No, ma in effetti ci siamo ritrovati, ad esempio, ecco, magari posso parlare un attimino anche della famiglia dove eravamo noi ospiti di questo Esperotto, che tutti carini all'inizio, eccetera, andavano a messa tutte le mattine, le donne, eccetera, però alla fine, dopo circa una settimana, 10 giorni, hanno cominciato così, ecco, tra mugugni e borbotti, eccetera, a farci capire, insomma, che non eravamo più graditi, tanto graditi, no? Sì, beh, una settimana. Tanto è vero che una volta, eravamo ancora appena finiti di mangiare, arriva il cosiddetto paron grosso, no? Anche questi erano proprietari di stalle, no? Il quale dice, io non voglio vedere davanti, andai in stalla, no? Ecco, e allora siamo andati in stalla, e allora lì ho scritto che se queste parole che fecero soffrire mia madre, invece suonarono come melodia alle mie orecchie, perché quello di andare in stalla per me era un motivo di divertimento, di curiosità nel vedere tutte queste mucche, no? Così, ecco, allineate, eccetera, che poi correvo lungo la stalla io per osservarle da vicino, eccetera, per cui, ecco, quindi c'è questo del fatto che poi alla fine si diventa pesanti, si chiama da spedire il più possibile, da mandare via, eccetera, è un fatto che poi ho vissuto anch'io con mia madre, dall'Esperotto, insomma, no? Diciamo che la pazienza è abbastanza limitata, chiaro che la natura umana è quella che è, evidentemente, ma insomma si può pensare. Croccando sono anche da capire, insomma, se fosse una cosa che capita a noi, prima o poi magari sì, mostriamo un volto accogliente, sereno, eccetera, però piano piano, se la situazione non si sblocca, finiscono un po' per esserci un po' di peso, si diventa insofferente, insomma, ecco. Come è successo ad esempio questi albergatori, a proposito dei terremotati nel centro Italia, esattamente, è di questo che benissimo. Volevo appunto parlare, sì. Ecco, appunto, cos'è che diceva lei? Dicevo che appunto qui chiaramente poi sono delle esigenze legittime di chi ospita, eccetera, e naturalmente questi si collidono un pochino con la questione di chi non sa dove andare ulteriormente, diciamo, non ha radici, non ha più niente con legami col passato, e sì, si vede sballottato di qua e là. Quindi chiaramente sono esigenze entrambe legittime e che danno la misura della nostra precarietà come esseri umani, credo io. Ma io volevo aggiungere un altro particolare, quella che gli albergatori, quello è il loro lavoro, evidentemente. Loro vivono sul turismo, hanno delle persone, delle famiglie anche da mantenere, da mandare avanti. Chiaramente, cioè, c'è un discorso di esigenze nostre che a volte si scontrano con quelle degli altri, esattamente. Niente, allora potremmo passare naturalmente al prossimo brano musicale, un attimo, d'accordo, che è sempre la pura verità. Sì. Ti voglio proprio dire la pura verità. Da quando ti ho incontrata ho perso la mia età, non mi era mai successo di amare così tanto, soffrire ogni momento, e questa è verità. Cammino e la tua immagine è qui davanti agli occhi miei. Vorrei poterti prendere e andare lontano, lontano, lontano. La pura verità, non posso più dormire questa è verità. Vorrei poterti prendere e andare lontano, lontano, lontano. Ti voglio proprio dire la pura verità. Da quando ti ho incontrata ho perso la mia età. Non mi era mai successo di amare così tanto. Ma adesso siamo insieme e questa è verità. Eccoci di nuovo in studio a Minoretano. Il compianto minoretano, ma è sempre sì. Allora, signor Marinello, proseguiamo il suo racconto. Sì. Benissimo, allora con Naufraghi, naturalmente, che è Naufraghi, il secondo racconto. Mio padre ed i fratelli Vittorino e Luigino, 17 e 14 anni, rimasti a vigilare sulla casa, si diedero subito un grande affare. Come prima cosa fecero scorta di cibo, recuperandolo in parte dalla dispensa ed in parte dal pollaio. Con le cibarie accantonate, più qualche bottiglia di vino ed altre cose utili in caso di emergenza, tra cui una scala, una corda, delle sedie, attrezzi da carpentiere, un paio di secchi vuoti più uno di acqua potabile, la radio, batterie da cucina, qualche candela, un fornellino, il lume a petrolio e fiammiferi, si trasferirono al piano di sopra. E lì rimasero, lo sguardo alla finestra, in attesa dell'ignoto. Vestiti con cappotti e stivali, avevano tutti un'aria sbattuta ed assonnata. Chissà cosa non avrebbero fatto per rimettersi sotto le coperte e non pensare a nulla. Fuori, la campagna appariva come immersa in un amalgama lattiginoso di buio e di nebbia. Si sarebbe potuta definire una situazione normale, data la stagione, se non fosse stato per le voci concitate di famiglie e di bimbi piagnucolanti che, come ombre nella notte, continuavano a passare con qualunque mezzo lungo la provinciale, accompagnate dagli abbai di Diana. A mano che i minuti trascorrevano, aumentava nei miei lo stato di incertezza e di inquietudine cui si aggiungeva il pensiero dei familiari in fuga. Paura e speranza si alternavano nel loro animo. «Stai tranquilli, Fioi», li ricuorava mio padre. «Massimo chi arriverà due dì di acqua. A fermare il po' a che penserà il canale grande prima e poi la desetto». «Speremo, papà, che sia come che te dici ti», disse Vittorino. «Te vedrà che sarà così». Il papà, un uomo già avanti con gli anni, due guerre mondiali alle spalle, il fisico magro e segaligno, ma dal carattere forte e temperato da innumerevoli avversità, cercava in tutti i modi di stemperare l'aria di preoccupazione intorno a sé, infondendo coraggio e fiducia nei figli. In realtà la sua mente era turbata da gravi pensieri. Lo sapeva benissimo che le sue erano mere ipotesi. Tanta o poca che fosse, nessuno in quel momento era in grado di valutare il volume di acqua che si era riversato sul Polesine. Né le notizie scarse e frammentarie trasmesse dalla radio rassicuravano in tal senso. C'era un pensiero che rimbalzava nella sua mente con ossessiva insistenza. In caso di piena, i muri della casa, costruita a suo tempo con mattoni di scarsa qualità, avendo pochi soldi, avrebbe retto all'urto dell'acqua. Lo stato delle pareti, mentre si guardava intorno con l'ausilio di una candela, era tutt'altro che rassicurante. Vistose patine di muffa, piccole crepe, pezzi di calce scrostata. Si sfilò da una tasca della giacca la sua inseparabile pipa, ne riempì il fornellino con una manciatina di tabacco raccolto da una scatoletta. La pipa in bocca tirò ripetutamente finché il combustibile non acquistò un bel rosso vermiglio. Alla fine espirò saturando l'aria di un intenso aroma di tabacco. Da tempo si era ripromesso di restaurarle, poi, per mancanza di soldi, aveva dovuto rimandare il lavoro. Di tanto in tanto tirava dei gran sospiri. «I tegnerà, secondo te, i muri?» chiese Vittorino. «A me auguro», si limitò a rispondere mio padre. Non aveva il coraggio di dire che la situazione era tutt'altro che tranquilla. A ricondurre ben presto tutti alla realtà ci pensò Luigino, il primo ad accorgersene. «Sta arrivando l'acqua!» Quasi nello stesso momento si udirono gli abbai furiosi della cagnetta rimasta legata alla catena. Mio fratello si precipitò giù dalle scale, inseguito da mio padre e da Vittorino. «Non sta a fare il semo?» gridò mio padre. «Non vuoi che amora?» continuava a urlare mio fratello, già nel gesto di aprire la porta. A fatica riuscirono a strappargli la mano dal catenaccio. «No, no, a voi o morire coea!» continuava a strillare mio fratello, mentre mio padre e Vittorino lo trascinavano via con la forza. «Ma perché? Ma perché?» ripeteva disperato. «A noi agò libera prima, a noi agò libera prima!» Si sentì come mancare al pensiero che Diana, da lui tanto amata, scomparisse sotto l'acqua per una sua imperdonabile dimenticanza. Riuscirono finalmente a ricondurlo, singhiozzante, di sopra. «Caro il mio fiore», disse il papà, accarezzandogli i folti capelli neri, «cosa credi tu, che a me e tuo fratello non ne dispiace? Adesso è massa tardi». Aprirono la finestra e alla luce delle candele scorsero l'acqua che sciabordava, schiumeggiando sui muri della casa. Rimasero lì per alcuni minuti, gli occhi sbarrati, ad osservarla, mentre aumentava a vista d'occhio. Poi richiusero la finestra. Vittorino fece un salto giù, ma non riuscì a mettere piede sul pavimento. «Sta entrando da sotto la porta», gridò a quelli di sopra. «Vieni su», rispose mio padre. «Sparemo», aggiunse fra sé, «chi abbia fatto in tempo a mettersi in salvo». Il riferimento era ovviamente alla mamma, a me e agli altri due fratelli già partiti da poco più di un'ora. A un tratto si udì come uno schianto. Era l'acqua del Po, o meglio un liquido nerastro intriso di terriccio, di frammenti, di foglie e di legni e di altri oggetti ancora strappati alle case, alla campagna, che dopo aver scardinato la porta si riversava in casa con l'irruenza di una cascata e già saliva lungo le scale, gradino dopo gradino, verso il piano superiore, sotto gli occhi sgomenti dei miei. Strani esseri dalle forme primordiali si agitavano nell'acqua, fra cui piccole bisce e ratti che remigavano, cercando un improbabile approdo. Altre ondate di rinforzo alle prime fecero alzare il livello dell'acqua, che incominciò addirittura ad invadere la stanza da letto, appestando l'aria di putrido. Ecco qua, e qui abbiamo questa descrizione poi, drammatica dell'alluvione. È stato nel 51, no, l'alluvione? È successo nel 51. Ovviamente questo che vi ho raccontato precede il fatto del ladro di buoi, perché poi dopo sia io e mia madre e mio padre fummo ospitati poi a Gazzo Padovano. Gazzo Padovano, no? Sì, esatto. Quindi dove, che dopo è successo quel fatto dei... Comunque questo che precede ed è... Il momento, non so, voi mi dovete fare delle domande, non so. Ecco. No, non la prego, andiamo pure a ruota. No, perché, come si chiama, segue la fuga di alcuni componenti della mia famiglia, fra cui il fratello maggiore, che si chiamava Arrigo, Bertile, un'altra sorella, sì, mia sì, madre e sì, io sulla canna. Cioè, voi questo qui ve l'ho già raccontato. Siamo rimasti poi soltanto, sono rimasti lì soltanto mio padre e altri due miei fratelli a... in attesa degli eventi, non so, magari l'acqua si ferma prima, eccetera, eccetera. Non è il caso quindi a questo punto di allarmarsi più di tanto, possiamo anche stare qui, eccetera, eccetera. Ma io volevo chiederle una cosa, signor Marinello. Sì, sì. Qui a quel 51, quando è venuta l'alluvione, c'era stata molta pioggia prima? Sì, ovviamente c'era stata molta pioggia, no, al momento c'era il problema, credo che l'aumento del livello del Po fosse dovuto all'assorbimento, non so, forse ad un'ondata di caldo anomalo, eccetera, che aveva sciolto magari gli acciai e quindi aveva, ovviamente, questo aveva agevolato il riempimento. Sì, perché era in novembre. Era in novembre, però chiaramente siamo ancora... in pieno autunno, quindi e poi c'è ovviamente sicuramente, adesso questo a dire il vero non mi ricordo esattamente se se come si chiama il riempimento del Po fosse dovuto all'intensità di piogge avvenute in quel periodo lì, però insomma il fatto sta che insomma il Po si riempì in maniera tale poi da non riuscire a reggere gli argini, insomma, ecco. Ma adesso li hanno rinforzati gli argini. Adesso li hanno rinforzati, ecco, e la cosa strana è che in Italia, se voi avete notato, ma addirittura anche il Brenta, alcuni, non so, 2-3 anni fa, non so, lì dalle parti di Padova, sì, che ha allagato, eccetera, ma dopo l'alluvione del 51 e quella del 66, perché poi il Po ruppe ancora dalle parti di Portovira, attualmente si chiama Portovira, allora erano altri due paesi, Taglio di Po, no? Sì, è sempre del Polesine, no? Del Polesine, sì, eccetera. Da allora, dal 66 in poi, di alluvioni nel Polesine non ne sono più avvenute. Ecco, nel senso che poi gli argini ovviamente li hanno irrobustiti in modo tale da sostenere l'urto dell'acqua, anche della... magari vengono alluvioni a Piacenza, esonda da quelle parti, ma non nel Polesine. Quindi evidentemente, hanno fatto tesoro della brutta esperienza vissuta in quel periodo, i nostri politici, amministratori, eccetera, e hanno provveduto a rinforzare gli argini a dovere. Comunque, vi ricordate quello che vi ho detto anche l'altra volta a proposito della rottura dell'argine dalla parte polesana, no? Sì. Ecco, fu, parlando con delle persone, eccetera, amici, eccetera, fu secondo loro una scelta politica, perché il Po, come dire, divide l'Emilia dal Polesine, dal no? Polesine, sì. Quindi come mai che l'argine non ruppe dalla parte ferrarese? Cioè è una domanda un po' piuttosto inquietante, insomma, che... Ma può essere stata una coincidenza? Non credo che... Sì, cosa da storici. Sì, appunto. Che magari il Polesine è meno sviluppato, meno industrializzato del ferrarese, magari, ecco, magari... Ma mettiamo sott'acqua questo e cerchiamo di salvare, se non lo sa. Sono ipotesi che magari mi è capitato di sentire, no? Sì, però sì. Insomma, e dopo se ne fanno tante quando succede una tragedia, purtroppo, anche perché nel 51 non avevamo i mezzi che avremmo adesso. Certo. E quindi, comunque, certo che le alluvioni fanno paura, Fanno paura, sì, certo. Perché? Ecco, no, appunto, allora, tutti questi allagamenti, queste addirittura dovuti anche ad opere fatte male, no? Tipo di ponti costruiti su un fiume, il cui letto non viene magari ripulito, ecco, e poi dopo l'acqua non passa, no? Per forza, se ci sono le alghe... Certo, sì, no, infatti, ecco. Sul fiume Magra ho sentito addirittura, mi è capitato anche di vedere, case costruite sul gretto del fiume Magra, che è quel fiume che sfocia all'altezza di Aulla, no? Sì, nella provincia della Spezia. Sì, esatto. La Spezia. Voglio dire, sono tutte situazioni di disastro. Che ce le procacciamo noi con le nostre annunciato, diciamo, ecco. Allora ci ascoltiamo un'altra canzone intanto che il signor Marinello si riposa. Benissimo, allora la prossima canzone è Melodia Italiana. Ti ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo? Io con te volevo rimanere solo, fra tanta gente, solo con te. Parlavamo fitto fino a tardi, fra le giacche bianche dei camerieri. Non ti conoscevo ancora fino a ieri, e alla sera stavo già con te. noi ci alzavamo piano, tu prendevi la mia mano, mentre una chitarra ed un violino ci suonavano un refrain. Poi la notte ci trovò vicini, ci sembrava di scoprire il mondo. Io con te volevo andare fino in fondo, sei stata tu che hai detto non si può. C'era una chitarra ed un violino, noi seduti a un tavolino di quel piccolo caffè. Mentre a mezzanotte tutti quanti ci passavano davanti, stringevi forte a me, complice una musica ruffiana, una melodia italiana, mi dicevi sempre sì. Poi ci alzavamo piano, tu prendevi la mia mano, mentre una chitarra e un violino ci suonavano. Eccoci di nuovo in studio con il nostro signor Marinello. Sì. Allora. Sì. Allora, tiriamo un po' le conclusioni. Sì. L'esperienza è stata quella, ecco, che non auguro a nessuno. E proprio in questo periodo sono in contatto con un certo Giocondo Penolazzi di Villadose, che allora aveva 18 anni, no? Un mio compaesano, che mi ha adesso anche lui raccontato, così ricordato alcuni fatti che io appunto avevo già messo nel dimenticatoio, no? Accaduti a Villadose in quel periodo lì, no? Addirittura di gente che avendo presentito la rottura del Po ad Occhiobello già dalla sera precedente, avevano capito che ormai il Po stava, si erano messi in sicuro con i loro carretti, con i loro bestiame, famiglie eccetera, lungo l'Adigetto, no? Perché di Villadose l'Adigetto era la parte più alta del paese, no? L'Adigetto sarebbe quel canale che parte dall'Adige e poi passa per Villadose, no? Da Rovigo passa poi per Villadose. Si sono messi lì e in modo tale da non venire sommersi dall'acqua, no? Tutti i paesi confinanti, Ceregnano, Lamapolesine, Gavello, eccetera, tutta sta gente si era già trasferita dalla sera precedente. Ecco, così. Per dire come. E diceva, mi faceva presente. Pronto? Sì, siamo qui. Mi faceva presente questo Giocondo che a memoria d'uomo non era mai, il Polese non era mai stato allagato fino a quel momento. No, cioè era forse, c'era l'Adige che fosse nell'Ottocento, ancora alla fine dell'Ottocento, aveva fatto il balordo tracimando. Ecco, però il Po non aveva mai esondato fino fino al 1951. Ma dopo di fatti poi non ha più esondato, no? Non ha più esondato, certo, sì. Quindi ecco, poi questa è la situazione. Certo che deve essere pauroso vedere tutta sta acqua che esce. Sì, è una cosa, mio fratello mi diceva, mia madre, che mio padre anzi mi diceva che stava per... nel vedersi, cioè al posto della campagna tutte quante belle coltivate che c'erano prima eccetera, arate pronte per la semina, ecco, e vedersi davanti il mare chiaramente con queste mucche che si agitavano, che tentavano di scappare, che così anche altri tipi di animali. Ma gli animali hanno paura di queste, certo, cose, sì. Mamma quindi mia. Alla fine insomma, è lì che era lì che con lo sguardo sbarrato lì nel vuoto, con questa marea davanti a sé, insomma. Sono esperienze che ti lasciano un segno, insomma, ecco. Certo, sono fatti della vita che sì, ti lasciano tanto indifferente. È come quello della cagnetta morta sotto l'acqua, che quella distrazione sua lì, lui non se la perdonò mai. No, per tutta la vita ogni tanto mi ricorda un po' quel fatto lì, dice caspita, perché in quel momento lì non si sottovaluta magari l'entità del disastro, non si pensa che come poi è successo. Va bene, signor Marinello, ci ascoltiamo. Ringraziamo. E ci ascoltiamo intanto. E ci ascoltiamo un altro brano. Esattamente. D'accordo. Un altro brano che è Cuore Pellegrino. Va bene. Conosco il nome di ogni fiore, per ogni donna il suo colore. Ho il cuore pellegrino, tanti sogni sul cuscino. E quante volte avrò sbagliato, ma io non so che colpa ho se sono sempre innamorato. Conosco tutto e non so niente. Ho sempre amato inutilmente. E il cuore pellegrino non era di nessuno, però con te tutto è cambiato. E della tua semplicità io sono già innamorato. Uno che non sa che differenza c'è tra un'avventura e te è un pazzo. Ora io sto qui, adesso ci sei tu e non sarò mai più ragazzo. Amore mio, non sono più da oggi in poi, mi dedico a te. Conosco il nome del mio fiore, il suo profumo, il suo colore. No, non ho sbagliato. Starò con te, vicino a te, e sempre più innamorato. Starò con te, vicino a te, e sempre più innamorato. E rientriamo in studio per salutare il nostro ospite. Naturalmente Laura è fuggita molto velocemente come al solito, ma non moriamo disperati. Assolutamente no. Noi lo ringraziamo per il suo intervento e addio piacendo. Alla prossima volta. Grazie signor Marinello. Arrivederci, buona serata. Bene, anche noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, dando appuntamento alla prossima domenica e come sempre, la mia sigla, vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.